quella zona lì di Campeda, quella zona lì devi avere le cartelle, mi pare adesso. Adesso sì, ma io ti parlo di 2 mesi fa quando sono sceso a Sant'Antio, che poi sono salito, capito? Sono rimasto una settimana giù e poi me ne sono risalito su. Insomma, bisogna stare un po' attenti adesso, perché prendere la patente è un attimo, a riprenderla è un casino. A parte la patente, te ne c'è questa anche il mezzo, capito? E passi nel penale pure. Però il fatto che già passi nel penale perché sono guai lì. Passi guai, perché adesso capita, ti muovi nel penale, vabbè, un avvocato buono e te la prendo. Io parlo di me, oggi non so se riuscirei a riprendermi la patente con tutte quante le cose che ci sono, perché oggi è un problema, prendersi la patente, quindi per evitare lasciamo il mondo come. Vabbè. Mio figlio la prima volta l'hanno crepato, ma era sicuro di aver fatto tutto il giusto, invece l'hanno fregato alcune domande a trabocchetto che c'erano, poi la seconda volta gli è passato, le ha fatte tutte giuste. Sì, vabbè, però sono ragazzi, sono la patente, io già la concezione è diversa anche nelle domande, non è come quando l'abbiamo presa tu o l'ho presa io, e oggi è un casino, ci sono tante cose nuove, tante roba nel cui c'è la strada nuova, ed è un problema, riprendi Franco. Sì, conferma, è così, ci sono alcuni segnali che neanche riconosco io, figurati. Lascia perdere. Adesso addirittura ti fanno anche, c'è il coso della di blu, del prodotto che si mette nelle nuove macchine, cioè nelle macchine a gasolio, no? Perché non è solo nei camion, è anche nelle macchine che si mette questo di blu, quindi c'è anche la domanda, devi sapere anche la teoria di questa cosa qua, di questa additivo. Allucinante, che adesso ci sono diversi segnali, vicolo chiuso, zona ventosa, tutti quei segnali sono tutti nuovi. Vabbè, io li so perché vado su internet e faccio le lezioni di queste cose lì, perché mi diverto a rispondere e rispondo sempre bene, perché vado a esclusione e lo faccio, però questi sono di canna che li faccio perché non conosco. Ci sono anche roba sull'assicurazione, tutte queste cose qua che se lo sai all'estero, in Italia, eccetera eccetera, sono cose, le normative nuove che hanno fatto e che devi sapere. Certo. Ci sono segnali, infatti, ma secondo me questa gente qua toglierà qualcosa per fare qualche aggiornamento a chi ha preso la patente negli anni 90. Perché lo vedo, stiamo dicendo noi, pensa se non l'hanno pensata loro questa cosa qua. E loro la tolgono pure per fare cazzo. Già usa, prendete la patente, la C e la E ci vogliono 6.000 euro. 6.000 euro, tondi. E io ho la C di patente. E questi cucci lo rinnovi, 600 euro. Ma non ne ho fatto perché, ripeto Gabi, non la sto utilizzando. Infatti la volevo versare con la C, capito? Non la versare mai perché serve, non la versare mai perché può sempre servire. Non si doveva, se fa che pensione. 5 anni per rinnovare, proprio che pagano bene, anche 200-300 euro al giorno ce la fa. Io avrei fatto il CQC. Ma non la sto utilizzando, Gabi, cosa lo faccio a fare? Vabbè, se per tua scelta e cosa non la devi utilizzare, versala. Ma non credo, ma che fastidio ti dà, perché come tu dici, come rinnovi e visite. Franco ha finito di travagliare, sì, in pensione ho capito, però c'è gente che è in pensione e guida ancora il camion, cioè il viaggio dell'ordinario se lo fa, ha la carta conducente, se lo fa. Non è così, adesso se ti ferma la finanza ti chiede anche l'ultima busta paga, tu non lo sai, ma io, a me mi hanno fermato, mi hanno chiesto anche l'ultima busta paga, te la devi portare appresso. Come no? Perché io ti faccio vedere che noi ci assumiamo l'autista che è in pensione, è un ex poliziotto in pensione, e prende ed è aggiunto tramite agenzia, capito? Tramite agenzia veterinaria, e lui prende e ha la busta paga, e ha la busta paga già. Peppino in pensione, ma è pensione dall'età di 50 anni, è na 72 mi pare, 72 ne ha, e lui viene in stagione con lui, guida il 75, guida il camion, assunto come agente veterinario a contratto e lo pagano. Non lo so, se sono cose nuove non lo so, ma se io so che se uno in pensione non può guidare i mezzi pesanti e cose del genere, perché ti chiedo sempre questa busta paga, l'ultima busta paga, ti chiedo, te la portavo sempre appresso, io l'ultimo periodo me la portavo sempre appresso l'ultima busta paga. Uno, perché volevo sapere se si è assicurato e se a mio collega le hanno fatto una multa perché ha trovato la moglie con la pioggia, gli ha dato un passaggio col carro, l'hanno trovato dentro il carro, lo sai che tu non puoi sedere altra gente, solo gente della vita puoi sedere nel carro. E gli hanno fatto una busta di 1.000 euro la finanza, avvisicando con la moglie che l'ha presa perché stava piovendo, Giuseppe, lì, cioè, non ti vuoi subire un nome. Sì, lo so, non può salire perché un camion è testato alla ditta, deve avere conto terzi e deve essere assicurato. Una persona quando tu la siedi a fianco deve essere un collaboratore o un autista o uno scarichino. Però ti sto dicendo che Peppino, tramite agenzia interinaria, che sono le agenzie del lavoro, lui è in pensione, poi non so come siano queste cose di sgravi, cosa ritornano a lui e queste cose qua. Però lui è assicurato, un pensionato può lavorare, può avere prestazioni di manodopera, può fare prestazioni di manodopera, perché no? Logicamente le pagherà, cioè ci avrà diciamo che gli toglieranno dei soldi dalla pensione una volta superato un certo reddito, però lui con noi viene, allora per forza deve essere assicurato, ma se si sa, non si sa senza assicurare, il dischetto chi lo firma? La casa conducente come fa a sembrarla? Ma stai scherzando? Allora io ti faccio l'esempio mio, sono andato a fare 7.30 due anni fa e mi ha detto deve pagare 2.900 passa euro, mi va ad un raio perché ha superato il tanto che doveva guadagnare in un anno e praticamente prendevo la pensione e prendevo anche i soldi della ditta e lo stipendio. Ma scusa, se la pensione non te la posso dare, non te la possiamo dare, ma se non te la dare, non è che te la danno e poi ti tolgono 3.000 euro quasi in una volta, ma siamo scherzati. Beh, così è, no, perché siamo in Italia, non è che c'è da stupirsi, tu non devi andare più di quella soglia lì, capito? Se tu vai più di quella soglia devi prendere, devi fare 7.30, devi versare i soldi che guadagnati in più, tu devi stare sempre allo stesso livello, mai superare, poi sì impoverirti, ma mai diventare grande, capito? Quindi per quello si fa lavoro nero, perché quando uno arriva a una certa soglia, anche alle ore di straordinario, più di tanto alla sera al mese non conviene farne, più di 22 ore non conviene fare al mese, perché tanto poi sono tutte tassate e non conviene far fare straordinario a nessuno, sono tutte tassate, poi si lamentano, se ho fatto straordinario che meglio non ne facevo, allora non è fare e fai prima. Non è fare e fai prima. Vai Franco. Allora, straordinari puoi fare. Quando c'è in nero va bene, si va. Ma quando c'è assicurato, perché noi, io quando lavoravo con Zanussi, facevo gli straordinari, cazzo, in busta paga mi trovavo sempre meno, capito? Perché me li facevano le tratte inutili, tutti lì. Sì. E beh, per forza. Non conviene farne, uno lo fa magari sì per andare incontro alla vita, per diciamo per il benestare della vita, però a livello economico non conviene farne straordinari, cioè conviene farne un tanto al mese, 22 ore di straordinario, per l'esattezza, passate quello di lì, ti craccano. È fatto fuori busta, non è fatto, è pagato fuori busta, se no ti rilassali e non ti conviene più a farli. Ti dà sì per l'opulità se che altro, però vabbè, comunque in Italia siamo, perché in certi paesi li pagano tutto anche le mezz'ore, io ho un amico in Austria e li pagano anche la mezz'ora. Ma scherzi, credo che poi non te li possono neanche pagare fuori busta, perché se sei assunto per esempio cosa ne so con una SPA, con una SPA tu timbri un cartellino, l'entrata e l'uscita, capito? Almeno che non timbri il cartellino e poi rientri a lavorare, e quella roba lì magari te la fanno scontare come ferie, come quelle, magari ti mazzi fai, sa, ci sono gli inghippi, no? Ti fai 3 giorni di ferie, ti timbriamo il cartellino, però te ne stai a casa, te le fanno recuperare così. Ci sono sempre gli intrallati, non è che fai chissà cosa. Però, già, non... con un SPA non te li possono mettere fuori busta, con una ditta grossa, capito? Perché è tutto registrato, tutto contabilizzato. Se arriva un controllo e dice, ma questo qua perché ha questa busta paga, ha fatto queste ore? Invece loro cosa fanno? Ti mettono tutto in busta. Tu ti dicono, ti servono ferie, ti servono giorni, tu queste ore me le fai, ti servono ferie, ti servono giorni, tu fatti 2 o 3 giorni che ti servono e ti va il cartellino di 4 ore, capito? Te lo timbrano, per esempio, alle 8 e finisce a mezzogiorno, però ti fanno questa cortesia qua. Noi il cartellino non è che bevamo perché lo conveniva a loro, perché facciamo sempre più ore di quelle che dovevamo fare, quindi ci avrebbero dovuto pagare. Ma non hanno mai voluto mettere cartellino da noi. Però ti dico una cosa, che io sono stato chiamato in ufficio perché avevo 80 euro di ferie, 80 giorni di ferie da fare. E mi ha chiamato e mi ha detto, guarda, te lo dico sinceramente, non ce la faccio andartene questi 80 giorni, se vuoi te li paghiamo, e infatti me li ho fatti pagare. Mi ha pagato quelli lì e abbiamo preso la macchina un 127 diesel con quei soldi. Ci sta, o te le paga o te le fai, ma è stato anche onesto. Invece ci sono quelli che prendono, non te le fanno fare, oppure non ti pagano neanche le giornate di lavoro che fai, capito? C'è anche lì quella gente lì che prende e ti fa fare 15 ore, 16 ore al giorno, 18 ore al giorno, vai, ti dà 600, 700 euro al mese. E quante ce n'è gente che è così? Comunque, vabbè, poi quando poi si lamentano non trovano personale, vai Franco. E ma infatti, perché vogliono praticamente, la gente è gratis, uno deve andare a lavorare gratis, capito, capi? Tutto lì. In Italia siamo tutto magna magna, E lo ringrazio. E tutto contro lo bovaro, a chi si erano irribillati. Ma sempre la colpa io la do a queste, quando fanno queste cose qua, a leccaculo, scusami la parola, il leccaculo in una ditta è sempre quello che fa la fine più brutta. Sì, infatti, anche da noi ha fatto la fine più brutta, quindi tu l'ho pagato le mani. Quindi si prendeva 100 euro in più, un giorno mi ha detto, già, ma aspetta, gli hanno tolto 100 euro fuori busta. Quale 100 euro? Quello che ci danno fuori busta. A me ho detto fuori busta, non mi hanno mai dato nulla. E si è sgamato da solo, capito? Gli davano 100 euro fuori busta a lui. Sì, per leccare il culo, però quello ha fatto una fine brutta. Perché il leccaculo farà sempre una fine brutta. Io guarda, ho avuto esperienze di gente che leccava il culo, guarda, assurdo. Che facevano, ti facevano a pezzi, facevano a pezzi quando non ci rivedevi, prendendo le chiavi dalla macchina del principale, andando a lavargli la mano. Ma per piacere, ma per piacere. Poi un giorno, non so cosa è successo, si sono bisticciati e l'ha mandato via. Me l'ha mandato via, questo qua è rimasto dentro lavoro. E ha detto, quello perché io le facevo sempre i favori. Mi facevi i favori, ciao. Hai visto? E ha perso sacco e sale. Sì, e si è fatto odiare da tutti, perché noi ne avevamo uno così, cascettava tutto, diceva cose che non erano vere, già ne è partito dalle 8, e io il giorno, per dire, invece che alle 8 entravo alle 9 e mezza, diceva che era partito dalle 8 e non era ancora tornato da Stintino, con un camion pieno tutto di roba, e ci vuole anche il tempo di scaricarlo, però non alle 8, sono partito alle 9, alle 9.45, perché tra caricare tutto ci è voluto il tempo. Beh, mi chiama la principale, ma dice che si è partito alle 8, ma veramente tu l'orario, l'hai visto il mio orario? Io oggi sono entrato alle 9:30, come faccio io a essere partito alle 8? Allora ha detto balle quello lì, adesso lo chiamo io. E allora? Vabbè, ma se la merita con la gente. Con la gente si merita tutte queste cose. Tanto. Non vanno lontani, mica. Vai Franco. Che si vede dei libri si pari. Io ne avevo uno, ragazzi, che mancava solo che gli facesse saluto, gli apriva la porta quando lo vedeva arrivare, gli faceva l'inchino, buongiorno, qua, là, boom, va. E una volta la commessa l'ha mandato a portare della roba all'hotel Elisa. E praticamente è tornato e doveva andare lì in casa, lo doveva dare alla commessa, no, perché poi lo registra in casa. E questo qui non era l'atto. E lei gliel'ha chiesto, e tu non ti preoccupare, però quando ce li ho, mi sono serviti. E lei è scesa e l'ha detto al principale. Oh, lo sai che l'ha salvato, ha detto tu non ti preoccupare, già li dà a me i soldi, non ti preoccupare. Non ne sappiamo delle cose che ci sono tra principali e dipendenti, non ne sappiamo, e magari si fanno le cene assieme, che si fanno i favori, c'è chi va a tagliare l'erba, c'è chi va qua ne ho visto di tutti i colori, però tutti quelli che ho visto hanno fatto fine brutta. E chi faceva strada, lo sai chi era? Il più mandrone prendeva i punti più alti, lo sai perché? Un giorno è arrivato questo qua, io lavoravo un po' di anni con la Fitches, è arrivato questo qua, un tubista, che non sa, perché si è dimostrato una sorta di una sperla a fare niente, ma non era nelle cacculo né nulla, capito? Era proprio una persona che non ne fregava niente, lavorava, faceva il suo autore, lavorava, ma aveva la tubista, invece era un manovale, però come manovale lavorava, aveva forza, si impegnava, faceva e queste cose qua. Il capocantiere, cosa aveva fatto? L'ha fatto capo squadra a questo qui. Tu dici che il capocantiere l'ha fatto capo squadra, cosa perché? Perché era una persona che si impegnava, no? Non gli entregava niente di nessuno, non le cava il culo. E poi ha preso e ha fatto, perché poi gli è stato chiesto, perché c'era gente che meritava di diventare capo squadra. E il capocantiere ha risposto questa cosa qua, ha detto, ma ditemi una cosa, se io metto capo squadra una persona che sa lavorare veramente, a me il lavoro, chi me lo fa? Quindi ho messo capo squadra una persona che posso dirgli quello che deve fare, così rimane lì, almeno qualcosa la combina. Capito, si fanno i conti loro. E vabbè, e comunque io già li ho conosciuto, veramente dove sono io, dove ero io, ne ho conosciuto le chili, pagare dai. Poi vedere andando giù in ufficio e poi far chiamare la persona che si era dimenticata di togliere una scadenza, e vederla piangere questa ragazza, se l'è dovuta andare perché la stavano martoriando, capito? Sì, vabbè. Oh Giulia. Ma è quello, adesso tra me c'erano sempre i tuoi principali, non c'erano più. Cosa? I granai sono sempre i tuoi principali. Allora loro c'erano delle azioni, gli anziani c'erano delle azioni, adesso è entrato il figlio di uno dei principali, un nipote che sono i cappuccia praticamente, quelli che organizzano tutto. E poi ci sono loro dietro che sono azionisti sempre, capito? Aspetta, stavo ascoltando una cosa della Tirrenia. Il corretto funzionamento del PA, la nave. Già, quello io a volte lo vedo, che era il tuo ex principale, là, quello che usciva sempre in valigetta. C'era il gravino? Diana. Sì, quello lì, a volte lo vedo, non so, è diventato un mezzo, sempre in giacchetta, o magro, adesso è magro. Va per le fece la roba per i maiali, capito? Si prende la roba per i maiali, c'è maiali. E non si buco da un figliolo, ma dai buchi. E poi sì, ma sono rimasti azionisti sempre loro, capito? Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Ho capito. Però quel posto va, non è male. Secondo me, di Dio, se cosa c'è che non si capiva mai niente. È costata tantissimo la ristrutturazione di quella roba lì. Ma vabbè, quando sono stati questi luoghi hanno cambiato tutta la simmetria del negozio, hanno messo frigoriferi nuovi, di quelli grandi, hanno cambiato il banco della salumeria, della macelleria, hanno catapultato tutto, da tutto, hanno messo l'aria condizionata, adesso stanno mettendo i pannelli solari per risparmiare luce, perché quest'anno dice che i luci hanno pagato un botto. Ebbè, comunque ti posso dire una cosa già. Tourist Market era quando, vabbè, lo parlo di Porto Torres, era quando era sotto il Palazzo Rosso, in via Torre Sassi, a Borgona, al Satellite e in via delle Vigne. Di lì, secondo loro, hanno fatto il botto di casa, in quei negozietti piccolini, che facevano i panini, facevano queste cose qua a Borgona, con i panini si facevano a porci per le scuole, così è. Guarda, lì casi li ritiravo io, quindi lo so che guadagnavano bene, dai. Quello che guadagnava di più era via Ettore Sacchi, secondo via Sardegna, poi Borgona, via delle Vigne un po' meno, e poi a Borgona hanno aperto anche l'altro, e quindi ce n'erano due di negozi, non uno so, poi uno l'hanno chiuso, adesso non so se li hanno chiusi tutti e due, perché adesso stanno chiudendo, quelli che avrebbero meno li chiudono adesso. Sì, sono tutti e due chiusi. Ma guarda, loro hanno fatto i botti e si comprava molto bene, perlomeno i miei andavano di lì a fare la spesa per Torre Sacchi, perché noi abitavamo lì, quindi si vedeva che era sempre pieno di gente. Poi una volta, quando fai il passo lungo, hanno aperto questi granai, secondo me hanno perso tanto. Allora io la storia del Tourist Market la conosco tutta, perché ci sono stato 38 anni, quindi ti puoi immaginare, ho visto nascendo negozi, andando via gente, riassumendole, insomma ho visto un po' tutto. E ti dico una cosa, il vieto alle Sacchi noi lavoravamo benissimo, poi hanno voluto aprire questi granai, perché poi avevamo il monopolio, quel periodo che sei scelto avevamo proprio il monopolio, eravamo quelli più forti a Porto Torres, perché c'era solo Giorno, ma Giorno non ci faceva nulla, proprio niente, noi lavoravamo tantissimo. E niente, adesso qualche cosa io, le mie ossa, quanto lavoravamo. E niente, poi hanno cominciato lo Spine, Isio, Guindarso, Lidl, e quello con l'altro, diciamo di concorrenza adesso, capito? Le cose non sono più come prima potevi tenere tutti i negozi, perché vendevamo da tutte le parti, quindi adesso, per dire, in via Piemonte c'era Lidl, cose, poi hanno aperto lo Spine, la Conad, e questo e quell'altro, alla fine poi c'è la concorrenza e devi anche adeguarti ai prezzi, tutto quanto, perché sennò poi la gente, sai come, no? Quando ci sono pochi soldi va dove si spende meno. Lo so, però il fatto di andare dove si spende meno non è neanche l'idea giusta, perché io all'Eurospin c'è tanta porcheria, c'è tantissima porcheria già, cioè io a volte vado sia all'Eurospin, ma vado anche ai granai, vado al Conad, per esempio alla Lidl compro solo attrezzatura tipo trapani, queste cosine qua, dai, lo va per lavorare, ma da fare la spesa sto già da un paio d'anni mi sto rivolgendo per, per esempio a comprare la roba per la bambina, vado a prendere di roba buona, per esempio prosciutto, quei prosciutti crudi, quei prosciutti cotti che ci sono già confezionati all'Eurospin, qui non bisogna comprarne. C'è tanta porcheria all'Eurospin, tanta. E ti accorgi della differenza anche nella carne, che poi la gente è convinta di prendere e risparmiare andando all'Eurospin a comprare la carne. Se tu guardi là per le bistecche di capocollo, guardi il salsiccione, sono a 10 euro il chilo, no? Se tu vai in una macelleria normale, una macelleria normale, sì. Gabi, una notizia ti do, l'ho letto su internet, praticamente Conad, LD, Eurospin, Eurospin, poi non mi ricordo chi altri, hanno aderito al permesso che hanno dato per vendere la farina di grillo, la farina di così, anche come si dice, non so cos'è, le cavallette, tutta questa roba schifosa. Di leggere bene, perché ciao, prometto, sono uscito, ciao, buonasera a tutti. Ciao Luca, ciao, mi sentito? Non sono uscito perché ho schiacciato male il microfono. Già, scusami, che c'avevo, che mi ha fatto una bolla d'aria la lavastoviglie ed è uscita l'acqua dal rubinetto di cucina. Sono all'ascolto, buonasera Luca. Cappa. Vabbè, comunque state attenti a quello che comprate, perché la farina di grillo c'è anche nel pane. Lo so, ma infatti il pane bisogna prendere e iniziare a limitarlo. Io, vabbè, non ne sto mangiando pane, non ne sto mangiando, però qualche volta capita che a pranzo, se c'è qualche cosa da bagnare, mezzo panino svuotato alla mollica, me lo mangio. Non ne mangio quasi mai, né pane né pasta, ma qualche volta capita. E non vorrei ritrovarmi questa porcheria. Addirittura le larve, fra poco danno il permesso anche a vendere le larve. Che non la possono fare, devono metterlo nei prodotti che ci sono nel pane e nelle farine, non lo possono fare a metterla a sorpresa, dovrebbe, cioè c'è proprio scritto, contiene farina di grillo e quella se la mangiano. Che schifo, gas, ma che idea, che punto. E c'è scritto una raccomandazione, state molto attenti perché queste farine possono provocare delle infezioni e delle allergie a persone che ne sono, che possono prendersele, capito? Tutte queste allergie, queste cose provocano. Sono predisposte, non mi veniva la parola. Ho capito, sì. Adesso voglio vedere se i nazi vanno in qualche posto e vedono la cavalletta o la blatta morta. Una volta che ci sarà questa farina di grillo questi insetti che si mangiano crudi, quanti giorni di magna, si pigliano e vanno in rugolaggio di buonino verbale e si agattano una gattarana. Adesso voglio proprio vedere tutte quelle persone sanzionate che se immagini. Perché guardi, la farina, perché le cavallette, le tarantole si possono vendere in esposizione perché sono controllate, mentre quella lì non sappiamo se è uscita dalla fogna oppure dove sia uscita. Io, ci sarà questa scusante qua. Fra poco ci metteranno anche gli scarafaggi da mangiare, per carità di Dio. Se uno risfugge magari la scritta, ragazzi, si mangia la roba, boh, mamma mia, devi stare sempre fuoriuscendo e controllando e vedere se c'è farina di grillo e tutte le cose adesso, perché hanno dato già il permesso per venderle. Addirittura le stanno vendendo le cavallette impanate e fritte come le patatine. A faccia si ricudini, vabbè. Sì, se le tira la schiena per andare bene. Ti volevo dire una cosa, me ne sono dimenticato, ce l'ho sulla punta della lingua quando stavi parlando, ci ho pensato e te lo volevo dire. Vabbè, riprendo. E vabbè, che in Africa ho visto un documentario, ho visto questo documentario che in Africa prendono le cavallette vive, le massicano così, mamma mia, non so come cacchio fanno. A me l'altra notte stavo guardando il cellulare perché non riuscivo a dormire. Cosa è successo? Ha tirato sicuramente la luce, ha tirato un boccino, mi si è entrato in bocca, me l'ha ingurgito, ma una cosa così schifosa, amara, mamma mia. Eh beh, è uno schifo, sì. Ma tu gli mangi i gamberi, già? I gamberi, sì. Bravo, sono della famiglia delle Blatten. I gamberi. E cerca su internet. Cerca su internet. Vai, cerca per darmi la risposta, che i gamberi sono della famiglia delle Blatte, non ci crede nessuno, non ci credeva nessuno, l'ho fatto leggere a un paio di persone, non hanno più mangiato gamberi. I gamberi sono della famiglia delle Blatte. Vabbè, fate un crostaccio. Ma se il gambero, se il gambero è di mare, la Blatte è di terra, come cavolo fa a essere della stessa famiglia? Spiegami. Tu lo sai, da te chi te l'ha detto che la Blatta è di terra? La Blatta, chi te l'ha detto che è di terra, non è di mare? Dove c'è scritto? Beh, io l'ho sempre vista nei portoni, a Porto Torres ce n'è sempre una marea, perché li buttano la medicina, quella bianca, e la mattina quando andavo a fare le consegne le trovavo tutte quante crepate nei portoni. Lì ce ne sono un bel, perché è un posto di mare, come arriva la roba sicuramente sono all'interno, perché non sono blattelose, sono lì quegli scarafaggi marroni grandi. Bravo, hai detto bene, arriva è una città di mare, le blatte sono nelle fogne, le blatte sono nell'acqua, già, le blatte sono nell'acqua, sono nelle fogne, non sono a terra, la blatta esce dai tombini, perché è nell'acqua, capito? È dalla famiglia dei gamberi, le blatte, dei cosi, dei granchi, no, è dalla famiglia dei gamberi e degli scampi. E di quella provenienza lì già, è difficile accettare pure così, cercalo su internet, ma ti sei sentito? Già, sei morto dallo spavento? No, Gabi, lo stavo cercando. Ah, pensavo che eri svenuto, cercalo. Gli scarafaggi dell'oceano, vaffa... Gabi, ma se... Non sapevi che i gamberi sono gli scarafaggi dell'oceano? Sì. No. Vivono ovunque, mi guarda, lo trovo anche io. Sono gli scarafaggi dell'oceano, ma c'è proprio la famiglia, come può essere l'uomo che deriva dalla scimmia, capito? E vabbè, ma sono molto lontane, forse li chiamano così perché sono dei pulitori i gamberi, io li ho avuti anche nell'acquario, quindi non sono avuto anche le aragoste. E ho avuto però gamberi tropicali. E puliscono l'acquario, tutti i pesci morti che ci sono, si mangiano, tutte le impurità dell'acquario, si mangiano di tutto. Sì, sono della famiglia dei gamberi, le blatte. Gli scarafaggi no, lo scarafaggio no, però la blatta sì. Gamberi e scampi. È come il topo. Il topo, se tu dici no, ma è un cricetto, no, è un surigo senza coda, e noi un cricetto, torra visì, è un surigo senza coda. A me dalla avio, io i tupi li ho capito, io i tupi prenderli, ho la fobia, io affronto un leone, io affronto i leoni, mi già, e credi, però a me non mi mette un topolino perché io cerco di testa, mi arrampico all'aria, capito, io volo se vedo un topo. Ma ho scoperto che non mi dà fastidio proprio il topo di per sé, ho scoperto che a me mi dà fastidio la coda, capito? Perché noi i criceti ce li avevamo e li prendevo in braccio e non mi facevano niente, avevo la casa peruviana. Il topo mi fa schifo e ho scoperto che del topo mi fa schifo la coda. Una volta il mio principale sa cosa ha fatto. C'era un topo, si è fatto il buco in questo cartone nell'angolo, ha pigliato con le dita, gli ha schiacciato la testa. Ma tu lo sai che dal topo che facendo le esperienze con i topi hanno preso fuoco campagne pure, che hanno incendiato i topi d'estate, vedere dopo in mezzo alla campagna, in mezzo al fieno, ha preso fuoco la campagna. Quella volta ho visto in piazza Antona io, quei commercianti che ci sono mettevano le trappole, e questo qui ha preso, c'era il topo, ha trovato la buccia a benzina, la buccia giù, lo so, che si è buccia a gufi, tutta la cosa ha rotolato, bruh, e si è fermato. Sì, va il topo uno schifo. Il topo è uno schifo, poi il topo se ti morsica e sei addormentato, che magari hai ti morsica un topo, è anestetizzante, il morso del topo fa morsicando e anestetizzando, morsicando e anestetizzando, non senti niente. È una cosa allucinante, no, io ho avuto l'allevamento delle capre, ne ho avuto anche i criceti, ma i criceti non mi piacevano perché si mangiavano le teste dei figli e li ho dati subito. Le capre invece ho avuto l'allevamento, appunto, le vendevo, mi facevano i figli, c'avevo un gabbione grande in terrazzo, e ne avevo tante, e stavano sempre facendo figli, sempre figliando, uno più bello dell'altro, da tanti colori, tutti i mesi, solo che ci volevano i soldi per allevarle. Il fieno costa, poi devi stare sempre tutti i giorni pulendo, se lo fiagari, e insomma ci vuole sapere come la segatura, il fieno e via dicendo. Spendi un bel di soldi e poi non c'è il tanto, perché poi le vendi, te le pagano 20 euro l'una e non c'è il tanto nemmeno di fare allevamento. No, poi puzza, quando piscia fa una puzza, perché se io avevo quell'appello lunghissimo, sembrava una parrucca bionda, dell'arancione era, ma quando pisciava bisognava tagliare i peli che c'aveva nel culo, perché faceva una puzza, poi era assurda, però la cavia è bella, noi la pettinavamo e dai, era bella, però il topo, qua è una merda. Io gli ultimi li ho regalati a un'amica che c'è la campagna, c'è conigli, c'è tutto quanto, li ho regalati. Ce l'avevo anche io, tutte così erano le mie, tutte a pelo lungo. E l'ultima parte di pelo, però quello che trascinavo glielo tagliavo. E poi gli facevo anche il bagno, io ne lavavo frutto, ne facevo il bagno con lo shampoo, diventavano, le batto fuori cotone, ne avevo bianche, ne avevo marroncine bianche, ne avevo di tutti i colori. Però le mie erano tenute bene, perché io ricambiavo sia la segatura che il fieno tutti i santissimi giorni, le disinfettavo la gabbia con acqua e aceto, li mettevo anche lo sgrassatore perché si attaccava tutta la cacca al fondo, e guarda, c'era un lavoro da fare, eppure mi attentavo perché mi piacevano. E ho visto qualcuno che li metteva anche degli stracci sotto, poi lavava gli stracci, ma non mi sembra una cosa igienica. Era meglio la paglia col fieno, io mettevo la paglia sotto, la segatura sotto, poi li mettevo la paglia e il fieno, e poi le davo da mangiare un po' di peperoni, perché hanno bisogno di vitamina C, perché loro non la producono, le davo peperoni rossi, che sono quelli che ne producono di più di quelli verdi e di quelli gialli. Poi gli davo frutta, verdura, solo queste cose ti costavano una barca di soldi. Sì, anche noi gli mettevamo la segatura, anche noi, ma noi gli facevamo il ciuffetto, gli mettevamo l'elastico, gli facevamo il ciuffetto, erano belle, era bella, perché ne avevamo una. No, la cavia era bella, cioè mi piaceva, la cavia mi piaceva un bella, avevo vinta le bancarelle a Porto Torres, alla Festa Grande, l'avevo vinta io, in quel gioco che dovevi infilare più chiusi con il martello o un tiro, cioè non più chiusi, dovevi con un colpo di martello dovevi prendere e filare tutto il chiodo. Una gran viata, capito, la tratta la massa di cucchia, lo sai, giù faccio la bancarella pure. Ma senti, sei entrato un giorno, ma ti hai vinto la cavia, e mi devi comprare la bancarella, ma fatto. Già, assurdo. Comunque, avevo vinto questa cavia, mamma non la voleva, perché era la mia madre ancora. Però poi gli piaceva, vamo, dai, era bella. Va bene. Ah, non c'è nessuno, ma è entrato Luca, Franco ci ha mollato. Luca è entrato, non si sente. Franco si è dormito, Franco. Era già letto Franco, capito? la botta e poi è andato via. E via. Stanotte niente propagazione. Stanotte la propagazione è chiusa. Beh, mi pare che chiudiamo anche noi. Tanto la gente ascolta e non entra. E magari non c'è neanche nessuno. Magari non c'è neanche nessuno. O già adesso con la radio cialla, non aveva un controllo di radio e di segnale. Guarda un po'. Adesso ti faccio una portante mutta, modulata, e Gianni doppio rum ascolta Gavino, ora. E ti do un colpo in pizza. Ora. Sì, se 9.30 quasi, la radio è buona. La radio è bella in prosa. Sì, quindi la lasciamo così con questo microfono, già sempre il palmare sto usando. Questa è una radio da salotto, di quelle che si usano per fare salotto, la sera, quello che stiamo facendo noi adesso. Stiamo chiacchierando, tranquilli, pacifici. Positivo, tu qua sei 9.25 pieni. 9.25, radio Super 5 già. Sì, radio Super 5, se non sbaglio è anche il tipo positivo. Sì. Poi io sto parlando a voce bassa adesso, se io parlo la mia modulazione o qualcosa voglio cambiare il radio, anche tenendolo un po' via, adesso sto parlando la mia voce normale, però non mi sembra il caso adesso che sono loro pure. Ciccia. Vabbè, io anche qua disturbo perché io sono in un condominio, c'è solo un muro che ci divide, quindi devo parlare a voce bassa. Sì, vabbè, per forza. No, dai, alla radio calda viene meglio a fare le comparazioni. No, qua mi sta arrivando forte, 9.25 sì, radio Super 5 tu, senza alcun problema. Piglia di 1.40, già 1.40, io. No, non è il momento, adesso capisco. Adesso prima devo fare altre cose, poi vediamo. Più là, KK, prima faccio altro che mi interessa di più. Poi la radio già ce l'ho. Quando soldi in più già li prendiamo. Adesso ho delle spese di condominio, chissà da buciugazzo l'avvocato, dobbiamo pagarci avvocato, ho pagato 135 euro di avvocato solo, perché questa qua ha ritenuto che praticamente quando hanno fatto il conguaglio fine anno hanno sbagliato l'acqua, li hanno fatto pagare a lei, abbiamo pagato chi ha pagato di più e adesso sta chiedendo i soldi a tutti i condomini. Condominio è un casino, il condominio è un casino, guarda, sei a casa tua, tutto quello che vuoi, ma il condominio è un problema. Boh, io non lo so, poi non è che parlano umanamente, dai, la persona umana, subito avvocato, ma porca miseria, ma non lo se vuoi suonare il campanello, dimmi, oh, neghi chi te gusimi, mettiamoci d'accordo, no, subito l'avvocato. Oh, yeah. Io queste cose le uso. No, vabbè, già non stavo dicendo di comprartelo domani, però magari quando ci pensi e lo fai, cioè io ti consiglio di farlo perché ne vale la pena, non a comprartelo domani. Però secondo me è una cosa utile per quello che ne poti, per quello che puoi fare tu, è una cosa utile perché già non hai le capacità anche perché le hai già avuti, quindi secondo me è giusto che tu te lo prenda uno anche più là, però è giusto che tu te lo prenda. Io sia di Galas che di cosa, di 140 ho avuto, anzi di Galas ho già avuto 5 addirittura, questo è il quinto, e l'altro ho avuto 3 o 4, adesso non mi ricordo, 140. Sì, quella che questa qua, praticamente, abbiamo fatto la riunione, una signora si è alzata e ha detto, mio marito ha perso il lavoro, io sto lavorando da ore, ci dica quanto li dobbiamo dare e li ridiamo, questi soldi la finiamo qua, perché cavolo, non può mettere la gente in difficoltà per i suoi capricci. Questa si è alzata e ha detto, ci vediamo in tribunale, se è andata via. No, vabbè, ci vediamo in tribunale. Con la gente non ha altre soddisfazioni dalla vita. Vedrai che fine fa quella. Quella lì è sola, quella lì fa essere una persona sola. Ci vediamo in tribunale. Quando dicono queste cose così, a me mi viene voglia di seguirle, tirare un calcio in culo e dire adesso ci vediamo per un motivo serio in tribunale. Sì, abbiamo chiesto anche il giudice di pace, non ne vuole sapere, capito? Non ne vuole sapere, ha detto che lì vanno avanti dalle cose, questo e quell'altro, ci sta facendo spendere, non vedi di là, capito? Per i capricci suoi, che poi sono stati fatti di nuovi conteggi, addirittura abbiamo fatto pagare di meno, non di più, ha pagato di meno di quello che doveva pagare, perché hanno fatto le partizioni a tabelle medesimali, quindi quella ha pagato meno degli altri, e lei adesso quando metterà la causa perderà la causa, perché siamo in tanti contro di lei, e lei è contro tutti, capito? Perché c'è questo fratello che è ragioniere, gli ha fatti i conti, ma gliela fatti a modo suo, ohia, per carità. E vabbè, comunque, adesso vogliono fare dei lavori al palazzo, questo e quell'altro, insomma, ci sono meno spese. Purtroppo io vivo di pensione e non è che posso togliere chissà quanto dalla banca, devo avere anche qualcosa per queste spese che ci sono straordinarie. Ebbene, sì, però io no. E non vai a nanna, quello sveglio sì. Quando si dovrà pagare il processuale allora. Qui Antonino. Beh Gianni, e allora? E allora sono sveglio, ma mi pare che là mi nanno perché è già tardi. Abbiamo continuato, siccome era portato il cane, quindi ho continuato a stare con Gavino. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, dai. Con chi sì? Con Gavino. Ah, ciao Gavino, allora. Niente, ho acceso adesso un attimino a spazzolare così per chi c'era, poi sono fermato a te, ci sto a parlare. E anch'io non è che ci sto molto. Qualche passaggio chiudo anch'io, dai, che mi guardo la televisione, c'è qualche film bello. E niente, stavo parlando di lavoro, stasera, di tutte queste cose qua. Abbiamo fatto diversi discorsi. Ciao Tonino, buonasera. Ciao Tonino, buonasera, ben sentito. Ciao anche a te Gavino. Andà bene, vabbè, che vuoi dire? Dimmi un po' se è saturo così o questo passaggio. Ora, 1, 2, 3, prova. No, non saturi, ma si abbassa la radio. Il segnale è aumentato però. Il segnale è aumentato sì. Ma la radio, diciamo, non è satura, però un po' compressa, dai, si abbassa. Niente, lo lascio così, è l'unica soluzione. Dai. Così è aperta, la radio è bella aperta. Ho capretto, mi andrà bene, vabbè. E così, ho sistemato un po' di roba, adesso è meglio anche la stazioncina mia, dai, tutto bello. Era un casino prima, non si capiva nulla. Cappa, adesso che ti devi trasferire, sono tutto a posto. Ma guarda, quello che c'è qua io metto dentro lo scatolone e via, non li faccio in fretta, no. Non c'è problema, non è che abbia cambiato chissà che cosa. Non ho aggiunto niente, non ho tolto niente, quindi la roba com'è, la tolgo, metto lo scatolone e fatto, anzi più in fretta faccio. Perché anziché io prima occupavo 3-4 ripiani, se ne occupo solo 2. Quindi, andare. Ma la roba, ma il giro fatto per la stamattina. Il giro fatto c'era stamattina, cioè? Ecco, che ti facevi un giro per vedere se trovavi quella roba lì. Sì, ho fatto qualche giro, però Niente, di solito sono tutto in vendita, capita, manco chiesa perché non interessa, io quando poi avrò i soldi in mani, in mano, so quanto ciò, cosa posso disporre, non è che io, se mi danno 60.000 euro, 60.000 euro butto, no, assolutamente, e so quanto ciò e quanto posso spendere, quanto mi può rimanere, capito, è inutile poi, ho guardato così e basta, non è che se trovo in affitto momentaneamente, va bene, poi se mi convince, diciamo, quella che prende in affitto, mi chiedo se me la vende, un conto quando avrei soldi sempre, io non faccio mai il conto senza l'ossa, quando c'ho la grana è diverso, capito, già non si fa mai i conti prima, quello sì, quello è certo. Vabbè, ma l'interessante è che ci sia l'idea, sui si può fare, si fa, se no pazienza, avanti, è positivo. Soldi si fanno i progetti con i soldi in tasca, e il passo lungo quanto la gamba. Ora. Perfetto ragazzi, dai, io me la chiudo che faccio la doccia in pubblico, e domani si trabacca. Va bene, ci sentiamo tutto alle prossime, buonanotte Gianni, buonanotte Antonio e buonanotte agli ascoltoni delle male lingue, ma le male lingue l'ascolto. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Gavi, ci sentiamo, buonanotte, grazie per il questo. Avanti così. Ciao Gavino, buon corretti, buona doccia e buona inanna. Ci sentiamo le prossime. Niente, no, novità ci sono, perché oggi sono entrato tardi perché ero sempre da Raimondo, sono arrivato stasera, mi ha chiamato, fare un po' di compagnia, sono rimasto fino a tardi e poi sono a casa a mangiare, quindi mi ha detto, caspita, non ci sarà più nessuno baracchino, hai pazienza, ho già tardi. No, novità non ce ne sono. Sono ancora vestito, devo andare a mettermi il pigiama, non a giugano, perché sono bello caldo, adesso c'è il maglione con lo alto. Io sinceramente, da quando sono nato, vabbè, quando cominciavo già a capire cosa caricare del solo, pigiama non è mai messo, io non lo sopporto, una volta l'ho sommesso, sembrava che ero ragazzo, mi si girava la maglia all'ascia, no, io mutandine e a petto nudo, a letto, via, anche d'inverno. Troppo freddo, no, io metto il pigiamone, poi metto un plaid sopra il piumone e poi me ne vado sotto, e mi dà un bel di calduccio. Però a certa ora della notte poi mi scopro, mi giro, mi faccio e poi me lo rimetto. E faccio così, perché per girarmi mi sento legato alle coperte io. Tu sei troppo freddoloso già, che cavolo. Io quando ho le lenzuola, una copertina leggera e un piumone, basta, io ho subito caldo, mi scaldo subito. Altro che, poi quando c'ho caldo mi scopro un pochettino, poi mi ghiaccio perché c'è freddo, perché io prima scaldo la camera con il condizionatore. Poi quando vedo che la temperatura cala mi copro bene, c'ho caldo. Quando c'è troppo caldo mi scopro, poi mi credo che mi si ghiaccia per i piedi, fermo tutto, torno dentro il letto e sono a posto. Ma da quando dimagrito so così, mi vengono anche i brividi di freddo, lo sai. Come le donne. Erano amici, ma c'è freddo, mi sto trovando, aspetta che ti porto la coperta. E anche quando sto guardando il televisore mi metto la coperta sopra che va giù freddo. Di solito ero già nel caldo prima, adesso sono già nel freddo. Tu c'è proprio freddolino, che. No, io già so bene così comunque. E oggi l'ho sentito di nuovo, il padrone. Parlando, ho detto, non stai più accompagnando la zia, mi sa che ti aumento di nuovo l'affitto a 400, forse non hai capito, tu puoi aumentare anche a 1000, tanto non credo, la cifra è quella e basta. Ho detto, tu non dovevi fare quello che stai facendo adesso, dovevi fare il politico, dice perché? Perché sei molto bravo come politico, cioè prometti non fai niente, così sono i politici, così sei tu, mi hai promesso che mi compravi una macchina per accompagnare tua zia, ora puoi usare anche tu a me. si mette la benzina, è pieno, accompagna zia, perché la macchina tu c'ha tre porte, non va bene, c'è una, quella di cinque porte, se la compro io, usata, che va bene, in buone condizioni, e non me l'ha mai comprato. Ti faccio il contratto e non sono mia sorella, no, e non me l'ha mai fatto. Si è giusto la veranda dopo due o tre mesi, questo genere l'anno scorso, e non me l'ha mai fatto. Quindi lui va bene a fare il politico, perché prima era bravo parlando, però, e poi in conclusione c'è zero. Tony, ma io non vedo questo nesso. Una cosa è l'affitto della casa, una cosa è compagnia la zia, cosa avete la zia con la casa? Io non riesco a capire, avete fatto un contratto che tu dovevi accompagnare la zia se ti faceva 350 invece che 400. Allora, lui ha detto che voleva due mesi a fondo, ha detto tu sei macco, io ho preso già questa casa che senza mesi a fondo perché era messa male, l'ho tutta aggiustata io, abbiamo consumato, perché mi ha invitato l'ex moglie, i miei figli eccetera, 5 flaconi di sgrassatore, imbiancato tutta la casa, sistemato tutto, l'impianto elettrico l'ho sistemato io, e davanti c'era un capo cieco e ho messo il rubinetto e tutto quello che c'è aggiustato l'ho aggiustato io, cioè alla fine cosa hai fatto tu? Zero, manco un centesimo. E quindi poi quando tu non c'eri il trattore qua mi ha rotto tutta la recinzione, ho chiamato Vittorio, guarda Vittorio, Simone, sì, compro tutto io, poi scado con l'affitto con tuo cognato, e così ho fatto, ho comprato il materiale e no, io ho fatto pagare solo il materiale, 220 euro, e non le ho fatto pagare la manodopera, perché sono cruciato manco, essere troppo bravi, ma pagare l'affitto, avevano proprio pagato il mese che è prossimo, che mi servono soldi, per due volte due affitti li ho pagato, e poi ti comporti così. Lui mi ha detto all'inizio, giustamente, se puoi accompagnare mia zia, 10 euro di mia zia, in più ti do quella, quell'altro, e invece non me l'ha mai dato. Ultimamente l'ho comprato delle casse di acqua, 7,50 euro, non me l'ha mai date. Ultimamente mi ha chiamato che sta arrivando con l'aereo e andare a Prefettina a prenderlo, l'ho matto, ma con un centesimo per la benzina. Cioè, io devo essere tutto per tutto e lui per me è zero. E mi chiama solo quando devo pagare l'affitto. Ma non ti nanni, ammazzati, che se mi ricordo gli accalcio in culo, cara. Per carità, questa gente è meglio perderla che trovare. Quando mettermi in pigiama, io con Drummendi. Buonanotte, ci sentiamo. Ok, dai, buon pigiamone. E mi raccomando, prendi il cucchiaino sotto cuscino, Gianni. Cosa? Mettiti un cucchiaino sotto cuscino. Va bene. Così se ti sogni la Nutella c'è il cucchiaino per mangiarlo. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao.